Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che da 12 anni racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, la trasformazione degli stili di vita, i progetti per un'economia di giustizia, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 734 e parleremo di elezioni politiche europee, dell'Unione Europea che striglia l'Italia, di strane messe contro i lupi, di una condanna riguardante un fantino del Palio di Siena. La ricetta della settimana e la colonna sonora della puntata sono a cura di Gabriele Palloni, chef, amico della non violenza, nonché appassionato DJ. Il prossimo mese di giugno si voterà per il rinnovo del Parlamento europeo e così 12 associazioni animaliste italiane hanno pensato bene di preparare un decalogo da sottoporre ai futuri candidati, in modo che si impegnino, se eletti, a sostenere provvedimenti tesi a migliorare la condizione degli animali nella nostra società e più in generale una correzione della rotta violenta e distruttiva che la nostra società sta seguendo. Le associazioni sono Animal Equality Italia, Animalisti Italiani, Animal Law Italia, CVF Italia, EMPA, Essere Animali, LAC, LAV, LEIDA, LNDC, Animal Protection, OIPA e Save the Dogs and Other Animals. I 10 punti indicati per titoli sono i seguenti: abolizione delle gabbie negli allevamenti, riforma della legislazione europea sul benessere animale, divieto di trasporto degli animali a lunga distanza per allevamento e macellazione, transizione verso un'alimentazione vegetale, revisione della politica agricola comune, la PAC, e aiuti alla riconversione delle aziende zootecniche, metodi sostitutivi della sperimentazione animale, tutela degli animali selvatici e sostegno ai centri di recupero della fauna, divieto di produzione e commercio di pellicce animali, lotta al randagismo e all'abbandono di cani e gatti, istituzione della delega alla tutela degli animali al commissario alla salute e sicurezza alimentare. Nel sito che pubblicizza il manifesto e che ospita anche un modello di impegno che i candidati possono compilare, ad ogni voce corrisponde un'ulteriore esplicitazione. Per esempio, quando si parla di tutela degli animali selvatici e dei centri di recupero faunistico, si dice anche: mi batterò per l'adozione di una lista positiva a livello europeo contro il commercio e la detenzione di animali esotici, come quella realizzata dall'Italia e da altri stati membri. Alla voce transizione verso un'alimentazione vegetale si dice invece: sostengo una politica europea dell'alimentazione diretta a realizzare una transizione vegetale, favorendo i cibi ad alto contenuto di benessere animale, produzioni vegetali e prodotti animali dall'agricoltura cellulare. Si tratta, come ben si vede, di un manifesto dai toni tutto sommato moderati, prettamente riformistico, senza eccessive ambizioni, com'è nello stile e nello spirito di associazioni che, fra le altre cose, svolgono un'azione di advocacy per gli animali non umani, ben consci dei limiti che un'attività parlamentare in questa fase storica può realisticamente produrre. Le 12 associazioni firmatarie, in un testo che accompagna il decalogo, spiegano che con questo manifesto chiediamo ai partiti di inserire il tema del benessere animale nei loro programmi, per dimostrare a cittadini e cittadine la propria volontà di mettere fine alle peggiori sofferenze cui sono sottoposti ancora milioni di animali ogni anno, ma anche la volontà di tutelare la salute delle persone e dell'ambiente. I risultati scientifici, proseguono le associazioni, dimostrano che l'approccio One Health, cioè quello che prende in considerazione la connessione fra la salute di animali, esseri umani e ambiente, è il più efficace per fronteggiare le emergenze sanitarie come l'antibiotico resistenza, le zoonosi e la degradazione degli ecosistemi. Negli anni i cittadini e le cittadine dell'Unione hanno ampiamente dimostrato di avere a cuore il destino degli animali, allevati e non, e chiedono che chi li rappresenta faccia di più. Noi ci impegneremo a informarli su chi avrà aderito alla nostra campagna sottoscrivendo il programma che abbiamo stilato. Vedremo nei prossimi mesi chi vorrà compiere questo passo fra i candidati alle prossime elezioni europee. Ci siamo occupati più volte in passato dei progetti pro caccia dell'attuale governo italiano, che si sta caratterizzando, fra poche altre cose, per la sua aggressiva politica contro la vita selvatica e in generale contro l'ambiente. Certe scelte oltranziste però si pagano, o almeno si rischia di pagarle, anche in termini pecuniari, visto che l'Italia rischia di essere sottoposta a due procedure di infrazione avviate dall'Unione Europea. Come scrive Luca Rondi su altreeconomia.it, riportando la notizia, si tratta di una sonora strigliata. Il nostro paese, scrive Rondi, secondo l'Unione Europea non protegge adeguatamente le catture accidentali di specie marine, autorizza l'uccisione e la cattura di animali selvatici nelle aree protette e nei periodi di divieto e soprattutto non rispetta le norme sull'uso del piombo nelle munizioni utilizzate dai cacciatori. Su quest'ultimo punto, che viene trattato con maggiore ampiezza perché evidentemente riguarda anche le persone umane in modo diretto, ha puntato i fari l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche, istituita nel 2007, arrivando a stabilire scientificamente una correlazione fra la diffusione di determinate patologie degli animali e le scorie di metallo che si depositano nel terreno, soprattutto in zone lagunari e paludose. Questa scoperta ha portato l'Unione a fine gennaio 2021 ad adottare uno specifico regolamento che vieta l'utilizzo di proiettili di piombo. Da anni, ha commentato Domenico Aiello, responsabile per la tutela giuridica della natura del WWF Italia, denunciamo che le nostre leggi sono incompatibili con quelle comunitarie. Ma l'attività di lobby delle grandi aziende di armamenti, in alleanza con le associazioni venatorie, è più efficace, purtroppo, della nostra. In effetti è un'efficacia così potente da indurre il legislatore a violare scientemente le regole europee. Più forte della prudenza e della serietà istituzionale, evidentemente, è il desiderio di accontentare tali lobby. Si stima che nei suoli europei siano depositati a causa della caccia fra 8 e 12 mila tonnellate di metallo. Altra Economia riporta alcune considerazioni di Domenico Aiello. Ad aprile 2023, dice l'esponente del WWF, è stata ricoverata al centro di recupero animali selvatici del WWF a Valpredina, provincia di Bergamo, un'aquila reale di 2 anni di età affetta da saturnismo, con una percentuale di piombo presente nel suo corpo altissima, 1000 microgrammi sul litro. a dimostrazione del fatto che l'animale ha vissuto in un ambiente totalmente compromesso dal metallo tossico, un metallo che entra facilmente nella catena alimentare. Nonostante le cure, dice Aiello, la giovane aquila non è sopravvissuta. Qualche mese prima, su una spiaggia del Messinese, è stato ritrovato un avvoltoio monaco con la stessa patologia. Questi sono solo due esempi, ma i casi sono tantissimi. La salute degli ecosistemi e degli animali è direttamente collegata alla salute umana e per questo la contaminazione da piombo è un tema che riguarda tutti e non può essere sottovalutato. Sono esempi drammatici che rendono esplicita l'autentica natura della caccia, una pratica anacronistica e assai poco compatibile con un approccio collaborativo, cooperativistico, con le altre specie viventi sulla Terra. Un approccio che a noi pare l'unica via di salvezza per una società che sta costruendo, mattone dopo mattone, la prigione all'interno della quale è destinata a soffocare. In questo quadro può sembrare paradossale, e certamente lo è se ragioniamo in termini di buon governo e di buon senso, è iniziata in Parlamento la discussione sul progetto di legge leghista che punta a modificare le norme sulla caccia, con l'obiettivo di ridurre drasticamente limiti e divieti e di allargare la libertà di sparare, una libertà concepita e attuata nei modi che abbiamo appena detto. Oltre che per i proiettili e la diffusione del piombo, Bruxelles ha richiamato il nostro paese anche per il mancato monitoraggio sulla pesca di specie protette, dalle tartarughe marine agli uccelli che si cibano di pesci, poiché non esistono strumenti concreti di tutela e di monitoraggio. Infine, aveva notato che di 71 procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, ben 17 riguardano l'ambiente. Se qualcuno avesse ancora dei dubbi sulla reale vocazione ambientalista delle élite di governo, non solo politico, del nostro paese, dovrà aggiornare le sue posizioni. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. L'astio per gli animali selvatici, lo abbiamo detto molte volte, sta crescendo nella nostra società, forse perché la loro assoluta libertà è vissuta come una provocazione, in un mondo sempre più autoritario e pieno di condizionamenti. Fatto sta che gli episodi di intolleranza e di violenza si moltiplicano e si aggiungono ai progetti istituzionali che mirano a ridurre la libertà, appunto, di orsi, lupi, cinghiali e altre specie selvatiche. Un curioso episodio riguarda un rito religioso che il parroco della frazione di Forno in Valstrona, nella zona del Lago d'Orta, in provincia di Verbania, ha celebrato nei giorni scorsi. Si tratta di un rito religioso, ma forse sarebbe più corretto dire superstizioso, che risale almeno al 700 e che dovrebbe servire a invocare la protezione divina contro gli attacchi del lupo. Sarebbe San Valentino, in particolare, il santo che protegge dai lupi. Si tratta evidentemente di una celebrazione da inserire nella campagna in atto contro i selvatici e non è certo un caso se il comune di Valstrona, che conta poco più di 1000 abitanti, ha approvato una delibera per dichiarare il proprio territorio libero da orsi e lupi. La messa contiene anche una sorta di esorcismo che nel testo originale definiva i lupi pestiferi. L'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente ha scritto una lettera al Vescovo di Novara e alla Procuratrice della Repubblica di Verbania, scrivendo: «In questo piccolo comune siamo ripiombati nel XVIII secolo, con la celebrazione di riti anacronistici benedetti dalla Chiesa Cattolica, un rito abolito da oltre un secolo che inneggia l'uccisione di lupi e manda contro di loro un anatema. L'esposto alla Procura della Repubblica ipotizza il reato di istigazione all'uccisione di animali selvatici e il maltrattamento di animali ai sensi dell'articolo 544 del Codice Penale». Il parroco di Forno è stato invece difeso dall'eurodeputato leghista Alessandro Panza, secondo il quale la messa non è contro il lupo, ma, dice Panza, è un rito per la protezione del gregge e dei pastori, quindi non istigazione all'odio, ma preghiera di una pacifica convivenza. La procedura, ripetuta dal 1762, secondo l'eurodeputato, ha l'obiettivo di chiedere la protezione divina contro gli attacchi del predatore, invocando in particolare l'intervento di San Valentino, una cui reliquia è conservata nella chiesa. Perciò Panza esprime solidarietà al parroco, vittima, secondo lui, di un delirio cittadino, che non vuole comprendere e capire i sentimenti di chi vive le sfide quotidiane della montagna ed è nel pieno diritto di preservare le proprie tradizioni e la cultura locale. Come si vede, in realtà siamo piuttosto lontani da un'idea di convivenza pacifica e cooperativa fra persone umane e lupi. Somministrare ai cavalli una sostanza di per sé non vietata, ma che incide sul loro benessere psicofisico per ottenere una prestazione che altrimenti allo stato naturale non raggiungerebbero, è maltrattamento. E questo vale sia per le competizioni che per gli allenamenti. Con queste parole, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fantino Luigi Bruschelli, detto Trecciolino, più volte vincitore del Palio di Siena, confermando quanto stabilito dalla Corte d'Appello di Firenze, che nel marzo 2023 aveva condannato Trecciolino a 7 mesi di carcere, con pena sospesa, per maltrattamento di animali. Grande soddisfazione per questa sentenza è stata espressa da EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali, e l'EIDA, Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, che erano parti civili nel procedimento, rappresentate dall'avvocata Claudia Ricci. Al Palio di Siena hanno detto le presidenti delle due associazioni, Michela Brambilla e Carla Rocchi, il maltrattamento c'è stato e come. E adesso non lo diciamo solo noi, che lo denunciamo da anni, ma anche questa sentenza della Corte di Cassazione. Una pronuncia importantissima perché rappresenta una vittoria non solo per Mocambo e Fulmine Femmina, i cavalli coinvolti, ma per tutti gli animali, in particolare per i tanti cavalli che spesso nelle manifestazioni folcloristiche vengono sottoposti a trattamenti farmacologici o terapeutici non per il loro benessere, ma allo scopo di ottenere prestazioni che nel loro comportamento naturale, senza farmaci, non sarebbero in grado di raggiungere. Secondo Brambilla e Rocchi, la Suprema Corte con questa sentenza ribadisce che incidere sul benessere psicologico dell'animale attraverso l'uso di farmaci o sostanze senza necessità terapeutiche determina una lesione del suo benessere fisico, perché l'animale è un essere senziente. Una sentenza da tenere a memoria quando torneremo a parlare del Palio di Siena e di altri eventi analoghi. Nei giorni scorsi hanno avuto una forte eco mediatica i dati sull'inquinamento riguardanti la pianura padana, una delle zone d'Europa più insalubri, non solo per la vita umana. Un'ulteriore conferma del grave stato di salute di questa importante fetta d'Italia arriva dalla LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, che ha diffuso i risultati per il 2023 del suo studio sul Farmland Bird Index, ossia l'indicatore che descrive l'andamento delle popolazioni degli uccelli comuni nelle aree agricole. Ebbene, la presenza di uccelli nelle zone agricole italiane è in costante, drammatico calo. Si tratta del meno 36% fra 2000 e 2023 nel complesso degli ambienti agricoli italiani, addirittura meno 50%, appunto, in pianura padana. Alla luce di questi dati, secondo l'IPU, il Green Deal e la transizione ecologica devono proseguire senza indugi e anzi rafforzarsi, sapendo conciliare le esigenze della produzione agricola con l'indispensabile tutela della biodiversità. Questi dati arrivano mentre l'Italia è attraversata dalla protesta degli agricoltori, scesi nelle piazze con i loro trattori per protestare contro le politiche agricole europee e anche, nello specifico, contro i progetti di transizione ecologica, in parte ritirati, sull'onda della protesta, dal governo Meloni. Secondo l'IPU, all'opposto, urge l'approvazione di quelle norme europee che possono ridare spazio alla biodiversità, prevedendo il ripristino di ambienti andati distrutti, gli elementi del paesaggio, le zone umide in pianura, e un rafforzamento della PAC in difesa dell'ambiente, ripristinando per esempio l'opzione del 4% dei terreni da lasciare incolti, una norma troppo frettolosamente posticipata. In particolare, l'agricoltura intensiva degli ultimi decenni in Italia ha portato al crollo di specie in passato molto presenti, come la rondine, -51%, l'allodola, -54%, o la passera d'Italia, -64%, portando fino quasi alla scomparsa specie come l'averla piccola, -72%, il saltimpalo, -73%, il torcicollo, -78%, il calandro, -78%. Come ogni settimana, il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni ha preparato una ricetta rigorosamente non violenta, ispirandosi alle notizie della puntata. Sentiamo di che cosa si tratta. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. A Bruxelles non ci sono mai stato e sicuramente ci sarà un miliardo di cose belle da vedere che ti faranno ricordare la città per sempre. Ma sarà per deformazione professionale, ma a me la capitale del Belgio fa venire in mente una sola cosa: sformato di cavoletti di Bruxelles. Gli ingredienti per 4 persone sono 300 g di cavoletti di Bruxelles, 300 g di patate, 1 litro di latte di soia al naturale, 50 g di farina di ceci, 100 g di farina tipo 0, 20 g di amido di tapioca, un pizzico di noce moscata, un pizzico di curcuma in polvere, uno spicchio di aglio, 50 g di pan grattato, 50 g di nocciole tostate, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Sbucciate le patate e tagliatele a rondelle spesse mezzo centimetro. Fatele scottare per 3 minuti in acqua bollente leggermente salata, scolatele e fatele finire di cuocere in padella con un cucchiaio di olio extravergine fino a quando risulteranno morbide ma compatte. A parte, pulite i cavoletti di Bruxelles e tagliateli a metà. Fateli scottare per 10 minuti in acqua bollente, leggermente salata, scolateli e fateli rosolare in padella con uno spicchio di aglio in camicia e un cucchiaio di olio extravergine, aggiustando di sale e pepe. In una casseruola fate tostare la farina con 100 ml di olio extravergine, facendo attenzione a non farlo bruciare. Aggiungete l'amido di tapioca e un pizzico di noce moscata, versate il latte di soia caldo, lasciatene 50 ml da parte, mescolando con una frusta. Fate addensare fino ad ottenere una besciamella piuttosto densa. A parte, stemperate la farina di ceci e la curcuma con i restanti 50 ml di latte di soia e unite alla besciamella. Fate cuocere ancora 5 minuti e togliete dal fuoco. In una pirofila distribuite uno strato di besciamella sopra il quale disporrete tutte le patate. Coprite con un altro strato di besciamella e distribuite tutti i cavoletti di Bruxelles e coprite con un ultimo strato di besciamella. In un mixer tritate le nocciole con il pan grattato e un pizzico di sale. Spolverate lo sformato con il mix di nocciole e pan grattato, passate un filo di olio extravergine e infornate a 180 gradi per 25 minuti in modalità ventilata. Lasciate riposare 5 minuti prima di servire. Questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla, Gianluca Masala, Gabriele Palloni e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.